freddissime. Più gli parlo e meno si interessano. Se gli offro da bere nemmeno rispondono. E le mie battute non fanno effetto. Gli ho portato le rose e i cioccolatini, ma niente sembra sfiorarle, sono di marmo. Per la precisione, marmo e granito. Devo smetterla di andare a rimorchiare nel museo le statue greche. Queste donne con me sono impassibili. Cerco scuse per parlargli, ma nemmeno mi guardano. Se le abbraccio rimangono rigidissime. Sono persone famose, se la tirano. Fumi, di che segno sei, l'interrogo. Con sta faccia di cera che hanno non si scompongono. Sarà la primavera, sì, sarà che sono di cera. Devo smetterla di andare a rimorchiare nella sala delle cere. Queste donne con me sono scortesi. Io gli parlo e non voltano la testa verso me. Sei straniera, vivi a Roma, ma non parlano con me. Mezze nude, eppure loro non parlano con me. Io gli porto regali costosissimi e nemmeno li guardano, stanno immobili. La strategia non si esplica, sarà che sono di plastica. Devo smetterla di andare a rimorchiare i manichini della stampa. Che tra poco il titolare mi ci manda. Che pezza. Queste invece con me sono fantastiche. Sono tante e mi ascoltano per ore. Sono morbide sempre disponibili. E poi nella campagna sanno fare l'amor. Niente rose né drink, sono semplici. Amano il vero me, non mi chiedono niente. E poi sono tante, ma tante, tante, tante. Devo ricordarmi di tornare spesso a rimorchiare in questa valle, dove amore al primo sguardo e le femmine ci stanno. Devo ricordarmi del pastore che non è contento se mi vede. Che non c'è legge che mi impedisca di amare tutto questo crescere.